Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Puntata numero 429, nella quale parleremo di un orfanotrofio che accoglie minori purché pesino almeno una tonnellata, pecore transumanti e naviganti. Miracoli animali e miserie umane. Speriamo di avervi incuriositi. Dedichiamo questa puntata a Daphne Sheldrick, di origini britanniche, diventata famosa per la sua attività di recupero di cuccioli orfani di elefanti, attiva dagli anni 70 nel Parco Nazionale dello Tsavo in Kenya. Il primo orfanello adottato era stato chiamato Dika ed era un elefantino di 6 mesi che pesava sui 100 kg e che aveva assistito a una scena atroce, il massacro a colpi di mitra dei genitori e di tutto il suo branco. Il cucciolo era stato risparmiato dalla ferocia dei bracconieri perché ancora non aveva le zanne. Dopo Dika seguirono Yuma, poi Olmeg e Alamaya. Un totale di circa 230 elefantini orfani sono stati salvati e adottati da Daphne, che nel 1976 era rimasta vedova, ma decise di portare avanti la battaglia in difesa degli animali condotta assieme al suo compagno. Daphne si è spenta all'età di 83 anni al termine di una lunga battaglia contro un cancro. Daphne, è stato scritto, parlava al cuore degli elefanti. Più che un orfanotrofio, quello che aveva ideato era una vera e propria scuola per il recupero dei cuccioli di elefante senza genitori, celebrata anche in un documentario della BBC. Intervistata mentre potava rose, la mamma dei tanti cuccioli aveva testimoniato l'emozione frammista a dolore provata quando ormai in grado di badare a se stesso ogni elefante lasciava il ranch. Tutta la mia vita, ha detto Daphne, è stata finalizzata a questo, salvarli e riportarli alla libertà. Daphne Sheldrick era attiva anche nella denuncia dello sterminio degli elefanti. Erano oltre 3 milioni un secolo fa, dichiarava Daphne Sheldrick nel 2016. Ora in Africa se ne contano non più di 400.000. Ne vengono uccisi circa 30.000 l'anno. Massacrati con i Kalashnikov dai bracconieri, magari legati a organizzazioni terroristiche come Boko Haram e Al-Shabaab, che si finanziano anche con il lucrosissimo traffico delle zanne. Nel sito internet della Fondazione Sheldrick troverete tantissimi video del recupero dei piccoli orfani di elefante e quelli della loro rimessa in libertà, con tante brevi storie. Tra le cose più agghiaccianti che si apprendono nel sito, c'è uno dei metodi usati dai bracconieri per catturare gli elefanti e ucciderli, che consiste nel piantare punte avvelenate sotto il terreno nei sentieri usati dai branchi, un metodo che azzoppa gli individui e li rende incapaci di sottrarsi all'inseguimento dei loro aguzzini. Al termine del documentario della BBC, Daphne Sheldrick si era commossa al ricordo di quegli orfanelli che, una volta adulti, tornavano regolarmente al ranch a trovarla con i propri figli. Sembrano dirmi, Daphne, nonna, sono i tuoi nipotini. That's a long, long time. But if by chance that I do, would you be gone? You could speak to me in Latin as a cloud appears in spring, undulatus aspiratus, as such a dobbiamo raccontare una piccola storia ignobile, la storia di un miracolo della natura, di amore e di cooperazione animale, ma anche di crudeltà e di sadismo umano. Per raccontarvela utilizzeremo soprattutto i comunicati e le testimonianze dell'associazione LIPU. La forza del lupo è il branco e la forza del branco è il lupo. Questa citazione di Kipling, autore del libro della giungla, si è incarnata nella prima riproduzione di lupo nel comune di Roma, dopo quasi un secolo. Due genitori adulti, Numa, maschio di Canis lupus italicus di 4 anni, e Aurelia, una femmina di 3 anni, si sono incontrati un paio di anni fa nei boschi della riviera naturale statale del litorale romano e nel maggio 2017 hanno dato alla luce 5 fratellini. Le fototrappole dell'Oasi Lipu di Castelguido hanno ripreso alcune immagini toccanti e bellissime che aprono a una nuova conoscenza e anche una diversa considerazione di questa specie selvatica. I fratelli lupi camminano nella notte, fiutano per terra, verificano che non ci siano ostacoli o rischi. E poi arriva lui, il quinto fratello, un giovane lupo disabile con le zampe posteriori paralizzate che trascina gli arti posteriori ma non si arrende e avanza con energia dietro il resto dei suoi familiari. Affetto da una grave paralisi che limita fortemente gli spostamenti e le normali attività, il lupetto era stato ripreso per la prima volta nell'estate del 2017. Le sue condizioni sembravano piuttosto precarie e non lasciavano molte speranze per la sua sopravvivenza in natura. Eppure questo giovane esemplare di pochi mesi d'età ha sorpreso tutti perché a ottobre è stato ripreso nei suoi primi tentativi di spostamento con il resto del branco. Poi, nei mesi di novembre e dicembre, è stato ripreso in aree di rifugio, dove il branco probabilmente lo teneva nascosto, portandogli il cibo regolarmente. Successivamente, nell'inverno, ci sono state settimane di assenza di riprese che avevano fatto pensare al peggio, perché sopravvivere in natura per un animale in quelle condizioni è veramente difficile. Forse si pensava anche il piccolo miracolo aveva avuto un suo triste ma naturale epilogo. Invece, nel gennaio 2018, il giovane lupo era ancora vivo, è stato ripreso durante uno spostamento notturno. Il suo nucleo familiare continuava ad assisterlo, permettendogli di compiere circa 9 mesi d'età. Mentre i suoi fratelli seguivano gli adulti per diversi chilometri negli spostamenti di perlustrazione del territorio per la caccia, il lupetto paralizzato aspettava il ritorno della sua famiglia e del cibo che questi gli avrebbero portato in luoghi sicuri e nascosti nel bosco. Una storia toccante, straordinaria, che ci insegna come in natura non c'è mai nulla di scontato, di come nella precarietà della vita selvatica esistono comunque forme di auto-organizzazione per resistere nelle difficoltà. I lupi riescono, grazie alla cooperazione del branco e forti legami sociali tra i diversi componenti della famiglia, a permettere anche a individui deboli di sopravvivere. Una storia che insegna a noi umani come dovrebbe andare il mondo, che racconta cose che nessun libro di biologia potrebbe insegnare meglio. Ci si chiedeva cosa sarebbe accaduto se il lupetto disabile fosse arrivato all'età adulta, che per un lupo coincide con la maturità sessuale e arriva generalmente al secondo anno di vita. Il lupetto, dicevano gli esperti, non avrebbe potuto compiere i normali spostamenti, andare alla ricerca di un nuovo territorio dove formare un proprio nucleo familiare. Gli esperti sostenevano che molto probabilmente il lupetto sarebbe rimasto con i genitori per collaborare con loro nell'allevamento di eventuali prossime cucciolate. Viene dimostrato questo da altri casi, nei quali individui menomati sono rimasti col branco dove sono nati e hanno svolto il ruolo di helper, cioè di aiuto alla coppia riproduttrice. Si era anche aperto un vivace dibattito tra chi riteneva giusto che il lupetto disabile vivesse la sua vita, magari breve, in libertà, dal lupo, assieme alla sua famiglia, e chi invece invocava la sua cattura per tentare di curarlo, per garantirgli una vita più lunga in cattività, in un recinto o in un'area faunistica. Intanto, mentre gli umani discutevano sul da farsi, il piccolo lupo continuava a crescere e a resistere in buona forma grazie al legame, la sensibilità e la cooperazione del suo nucleo familiare. Poi, l'epilogo. Nella mattinata di martedì 10 aprile, un lupo senza vita è stato ritrovato all'interno dell'azienda agricola di Castelguido e si trattava proprio di lui, del lupetto disabile, il più debole della famiglia. La morte dell'animale, però, è stata causata da un trauma da impatto, probabilmente con un'automobile, sulla strada sterrata della riserva naturale, pertanto vietata alle automobili adiacente al luogo del ritrovamento. È poco credibile, sostengono i responsabili dell'oasi Lipu di Castelguido, che su una strada sterrata dal fondo così accidentato, dove necessariamente la velocità non può che essere molto ridotta, per giunta lungo un rettilineo che garantisce una visione di profondità, non sia stato possibile evitare un animale che per le sue condizioni fisiche di disabilità si muoveva molto lentamente. Assente ogni traccia di frenata sul terreno fangoso, dove invece erano ben leggibili le impronte dei pneumatici. Dunque un uomo, ci verrebbe da dire maschio, probabilmente un bracconiere, è entrato nella riserva di notte e si è divertito, utilizzando la sua auto invece del solito fucile, accanendosi sull'elemento più fragile del branco, che non ha avuto nemmeno la possibilità di usare la fuga come difesa. Lo sforzo che ha avuto dell'incredibile da parte di un branco, che si è preso cura e ha accudito con successo per quasi un anno un soggetto disabile, è stato vanificato dalla crudeltà di alcuni appartenenti alla specie umana e dall'indifferenza di chi avrebbe avuto la responsabilità di gestire correttamente una riserva naturale, un territorio prezioso, datogli in affidamento, ma che per mancanza di volontà non ha nemmeno protetto gli accessi, per cui i varchi di questo parco restano costantemente aperti. Siamo stati testimoni di un miracolo della natura che è stato vanificato dall'uomo, cancellato in un attimo perché forse la fine di questo giovane lupo sarebbe arrivata comunque prima del previsto, ma di certo, se le regole civili fossero rispettate, fossero state fatte rispettare, nessun veicolo sarebbe potuto entrare quella notte, come tutte le altre, in una riserva, un luogo così delicato e fragile, e il lupetto sarebbe ancora vivo a trascinare testardamente il suo spirito di lupo sulle piste del branco. Quello che la natura riesce a fare con il tempo, l'uomo riesce a distruggerlo in pochi attimi. To your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Beauty when the witnesses are gone. Let me Dalla tristissima storia del lupetto disabile del parco naturale del litorale romano, ci affidiamo alla cucina che vive e lascia vivere, vegana 100% cruelty free, del nostro vegan chef Gabriele Palloni, nella rubrica Il Pasto Gentile. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. La ricetta di oggi la voglio dedicare al piccolo lupo disabile ucciso nella campagna romana pochi giorni fa. Questa volta, quindi, niente ironia, ma una riflessione allegorica. L'elemento base di questa ricetta è un ingrediente che solitamente viene scartato e gettato, ma per chi sa cogliere tutto ciò che di prezioso esiste in ogni singola cosa, di quello scarto ne farà una prelibatezza. Utilizzando le foglie verdi dei ravanelli faremo un pesto per condire un piatto di dedicati gnocchetti di patate. Ingredienti per 4 persone per le pepite di patate al pesto di foglie di ravanello sono: per gli gnocchi 1 kg di patate, 100 g di farina, della noce moscata e sale. Per il pesto le foglie di 10 ravanelli, qualche foglia di basilico, uno spicchio di aglio, un cucchiaino di pinoli, un cucchiaino di mandorle, una scorza di arancia o limone, un decilitro di olio extravergine di oliva, un cucchiaio di lievito alimentare a scaglie, sale e pepe. Lavate e lessate le patate con la loro buccia. Una volta cotte, scolatele e pelatele ancora calde e schiacciate con l'apposito schiacciapatate o con due forchette. Unite la farina, il sale e un pizzico di noce moscata, quindi impastate. Formate dei cilindri del diametro di mezzo centimetro che farete rotolare in un velo di farina. Tagliate ogni cilindro in piccoli gnocchi di mezzo centimetro e lasciateli riposare su di una spianatoia infarinata. Nel frattempo, lavate e asciugate le foglie dei ravanelli, quindi mettetele nel bicchiere di un mixer e aggiungete tutti gli altri ingredienti. Tritate finemente aggiustando di sale e pepe. Lasciate qualche pinolo e poca scorza di arancio o limone tagliata a lamelle molto sottili che userete come guarnizione. A questo punto lessate gli gnocchetti in acqua salata bollente e quando saliranno a galla scolateli e conditeli col pesto ma fuori dal fuoco in una zuppiera. Guarnite con i pinoli e le scorze di agrume e servite. Tradizionale della transumanza è ufficialmente candidata a diventare patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. La richiesta è stata presentata a Parigi dall'Italia, paese capofila della proposta, insieme alla Grecia e all'Austria. Il Ministero delle Politiche Agricole, che ha coordinato la redazione del dossier transnazionale, annuncia che è stato formalmente avviato il processo di valutazione da parte di un organo di esperti tecnici indipendenti, cui seguirà la decisione da parte del Comitato di Governo dell'UNESCO nel novembre 2019. La transumanza è la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori che, insieme ai cani e ai cavalli, si spostano da pascoli situati in zone collinari o montane nella stagione estiva verso quelli delle pianure nella stagione invernale, percorrendo le vie naturali dei tratturi, noti come stazioni di posta. L'antica pratica della transumanza, quale elemento culturale dal forte contenuto identitario, osserva il MIPAF, ha saputo creare nei secoli forti legami sociali e culturali tra praticanti e centri abitati, nonché rappresentare un'attività economica sostenibile caratterizzata da un rapporto peculiare tra uomo e natura, influenzando con la sua carica simbolica tutti i campi dell'arte. La transumanza è ancora oggi praticata sia nel centro e sud Italia, dove sono localizzati i regi tratturi, partendo da Amatrice e Ceccano nel Lazio, ad Aversa degli Abruzzi e Pesco Costanzo in Abruzzo, da Frosolone in Molise al Gargano in Puglia. Pastori transumanti sono ancora in attività anche nell'area alpina, in particolare in Lombardia e nella Val Senales in Alto Adige. Il nostro punto di vista però sulle pratiche di pastorizia, di allevamento estensivo o intensivo, è noto. Noi proponiamo un modello di relazioni tra viventi, siano essi umani o non umani, che non lasci spazio allo sfruttamento, all'oppressione e alla schiavitù. Far nascere una pecora in un gregge non è, a nostro modo di vedere, un'operazione innocente. Quella pecora non è un individuo libero, è stata fatta nascere per convenienza economica. Il suo grado di benessere dipende, ci verrebbe da dire gerarchicamente, dal grado di compassione e decenza morale dei suoi proprietari. Esattamente come accadeva, e purtroppo tutt'oggi accade, per gli schiavi. Per usare le parole di Jim Mason, la nostra tradizione è una tradizione di arroganza nei confronti del resto del vivente, considerato inferiore da usare e da sottomettere. Per questo motivo noi riteniamo che la transumanza, così come la pastorizia, l'allevamento in genere, siano tradizioni da mettere in discussione. Non tutte le tradizioni sono sostenibili e per definire quali possano esserlo occorre confrontarle con nuove acquisizioni nel campo dei diritti, della dignità, dell'etica, della sensibilità. La storia non è un monolite, ma è un corso d'acqua, qualcosa di fluido, qualcosa in continuo cambiamento. Only still, I think of rain when love's a different view. Only still, in the blue. All my life. Restiamo in tema di greggi e di pecore e voliamo a Sydney, in Australia, dove lo scorso 6 aprile il ministro australiano dell'agricoltura David Littleproud ha ordinato un'indagine urgente sulle esportazioni di pecore vive dopo aver visionato un video che ha definito profondamente inquietante, diffuso dal gruppo animalista Animals Australia. In un solo viaggio, nell'agosto 2017, sono morte circa 2.400 pecore per lo stress e per il caldo estremo a bordo di una nave che si recava da Perth, nell'Australia occidentale, a Doha, in Qatar. Il video mostra condizioni di sovraffollamento, mancanza di cibo e di acqua, animali morti lasciati a decomporsi sul ponte della nave. Il ministro si è detto scioccato e profondamente turbato dalle immagini di sofferenza degli animali e ha minacciato di bloccare la prossima spedizione di quasi 64.000 pecore in partenza da Fremantle, in Australia occidentale, se non saranno fornite sufficienti garanzie di buon trattamento degli animali. L'esportazione di pecore vive in Medio Oriente, perché siano macellate secondo le prescrizioni halal, è una delle maggiori voci di esportazione dell'Australia. Lo scorso anno ne sono state esportate 1,74 milioni, ma circa 12.400 sono morte in transito. Che l'orgoglio dei nostri allevatori sia trattato in questa maniera mi turba profondamente, ha affermato il ministro. Non esiterò ad adottare misure forti contro chiunque non abbia adempiuto alle sue responsabilità, che sia l'esportatore, gli enti regolatori o il personale di bordo, ha detto il ministro. Un messaggio subito recepito dal CEO dell'Export Council, il quale ha ammesso che le condizioni in cui sono avvenute le morti sono inaccettabili e ha assicurato che il settore è preparato ad adottare ulteriori riforme e a introdurre un miglioramento costante in termini di benessere degli animali. Vi saluta la nostra redazione al completo, che è composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 430 della nostra trasmissione è tra una settimana esatta, meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.